Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.09, buonasera a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria. È una giornata di nuovo nervosismo molto forte tra le borse internazionali. Questa mattina la seduta era partita meglio, dopo i forti ribassi di ieri i listini europei hanno provato a rimbalzare, anche se il rimbalzo non era particolarmente convinto, e poi nel pomeriggio nuovo scivolone. E perché sta succedendo tutto questo? Le preoccupazioni legate all'interruzione del programma di stimolo monetario da parte della Banca Centrale Americana oggi hanno lasciato il posto a quelle invece legate alla nuova evoluzione della situazione in Grecia. C'è l'uscita dal governo del partito della sinistra democratica e questo sta provocando inevitabilmente una nuova crisi di governo. Atene, la borsa, crolla del 6%. Vi racconteremo tra qualche minuto quello che sta accadendo appunto in questa parte dell'Europa. Europa in crisi ormai da qualche anno, non si riesce appunto a trovare la fine di questo tunnel e pare che anche il Fondo Monetario Internazionale voglia chiamarsi fuori o perlomeno abbia minacciato di farlo dal programma, appunto dalla partecipazione appunto al salvataggio di Atene. Se i governi europei non si impegneranno a coprire un nuovo buco di bilancio che sarebbe stato scoperto da un po' da 3-4 miliardi emerso appunto nel piano di finanziamento che le istituzioni internazionali hanno messo in campo per salvare Atene. Questo è uno dei temi che parleremo, ma non c'è stato solo questo di argomento che oggi ha provocato questa nuova serie di ribassi tra gli listini appunto europei che stamattina, come vi ribadisco, rimbalzavano. Milano adesso perde l'1,28%, perdono un punto Francoforte, meno 0,38%, Parigi, Londra meno 0,18%. Anche notizie dalla Cina delle ultime ore hanno contribuito a destabilizzare un po' l'umore degli investitori. E non mi riferisco al dato di ieri, quello sull'andamento del settore manifatturiero, ma è una notizia che si riferisce invece ad una forte crisi di liquidità in cui si troverebbe il comparto bancario cinese. Ieri sera la Bank of China, la più importante banca commerciale cinese, ha dovuto addirittura smentire con una nota ufficiale di essersi trovata in una crisi di liquidità tale da essere addirittura sull'orlo di un default. E era stata anche circolata anche l'indiscrezione che la banca centrale appunto cinese fosse intervenuta per rifinanziare temporaneamente appunto la Bank of China. Tutte smentite queste notizie, ma come sapete bene, insomma, la Cina non è che brilli per trasparenza nelle comunicazioni verso l'esterno, per cui è evidente che qualche cosa sta succedendo. Il mercato interbancario sta vivendo una crisi piuttosto forte che si sta ripercuotendo naturalmente anche sui listini di tutto il mondo. Questo tema pure lo approfondiremo tra qualche minuto. Parleremo anche di alcuni casi specifici di Piazza Affari. Mediobanca, piazzetta cuccia, meno 8%, il titolo veramente in calo molto forte. Questo calo non è cominciato subito stamattina, anche se il ribasso è stato subito evidente. I manager della società dell'istituto di Piazzetta Cuccia, appunto della più grande banca d'affari italiana, se non unica per dimensione appunto e rilevanza, hanno annunciato questa mattina nuovo piano industriale 2014-2016, ma è evidente che i target che sono stati comunicati agli analisti non hanno affatto convinto, perché il titolo scende parecchio. Tra gli altri cali segnaliamo anche quelli delle altre banche oggi a Milano, ma i casi di Piazza Affari ve li racconteremo più tardi. Poi ancora una volta molta attenzione in Italia legata ad una storia che abbiamo già affrontato nelle settimane passate, la storia di Indesit nelle Marche. Oggi era prevista a Roma un nuovo incontro tra l'azienda e i sindacati per cercare di capire se si poteva arrivare ad una trattativa per scongiurare la chiusura preannunciata appunto di alcuni stabilimenti in Italia. La riunione è praticamente quasi non iniziata perché si è rotta immediatamente. L'azienda va avanti con il suo progetto, il suo obiettivo. Sono state appunto preannunciate anche molte giornate di agitazioni e scioperi da parte dei sindacati. Anche di questo parleremo nel corso della nostra trasmissione. Quindi anche stasera i temi non ci mancano. 349-238-6666 il numero invece per gli sms che ci vorrete inviare per commentare insieme a noi i fatti del giorno. Adesso le notizie in breve. cominciamo come sempre con l'andamento delle quotazioni delle commodities, le materie prime, oro e petrolio, i nostri settori di riferimento. L'oro oggi in Asia ha poco mosso, a 1289 dollari l'oncia, mentre il petrolio a New York ha aperto in rialzo a 95,18 dollari al barile. La Russia e la Cina hanno firmato un accordo per la fornitura di petrolio russo a Pechino per un totale di 270 miliardi di dollari in 25 anni. L'accordo è stato firmato dalle compagnie pubbliche Rosneft e CNPC alla presenza del presidente Vladimir Putin a margine del forum di San Pietroburgo. Il numero uno del gruppo russo, Igor Sechin, ha indicato che il gigantesco contratto, sicuramente uno dei più grandi della storia petrolifera, prevede forniture per 15 milioni di tonnellate l'anno. Sentite un po' stamattina che notizie abbiamo letto sui giornali, se vi fosse sfuggita, sentite che tipo di analisi ha divulgato un'altra grande banca d'affari americana, JP Morgan. Gli economisti di JP Morgan, in un'analisi appunto circolata nelle ultime ore, hanno invitato i governi europei a, tra virgolette, liberarsi dalle costituzioni antifasciste e troppo caratterizzate da idee socialiste. È un documento di 16 pagine, quello che contiene appunto questa analisi, documento in cui vengono elencate le modifiche da apportare nell'area euro per riuscire a sopravvivere alla crisi del debito. Le riforme strutturali più urgenti, oltre a quelle politiche, sono, secondo la banca, quelle in termini di riduzione dei costi del lavoro, di aumento della flessibilità e della libertà di licenziare, di privatizzazione, di deregolamentazione, di liberalizzazione dei settori industriali protetti dallo Stato. Gli autori della ricerca osservano che nel cammino che porta al completamento degli accorgimenti da apportare alla propria struttura politico-economica, l'area euro si trova al momento solo a metà strada, e questo significa che l'austerità farà con ogni probabilità ancora parte del panorama europeo per un periodo molto prolungato. Il problema, concludono gli economisti appunto di JP Morgan, non è solo una questione di reticenza fiscale e di incremento della competitività commerciale, stando alla loro spiegazione, bensì anche di eccesso, sentite questa, di democrazia che va assolutamente ridimensionato. Come un'analisi che ha davvero dell'incredibile. Intanto, a proposito di eccesso di democrazia, pensate all'intervento che è stato fatto sulla Grecia per condurla appunto sulla strada della, come dire, riparazione dei conti pubblici del tutto fuori controllo. E insomma, questo grande controllo sulla Grecia messo in campo dalle autorità internazionali porta ad una nuova crisi di governo. La coalizione dell'esecutivo, guidata dal premier conservatore Samaras, si è infatti spaccata sulla questione, la ricorderete, della TV pubblica chiusa 9 giorni fa con un decreto legge nell'ambito del ridimensionamento dei dipendenti statali voluto dai creditori internazionali. Il premier però si è detto pronto ad andare avanti con decisione sulla strada intrapresa, una situazione appunto di tensione che, come vi dicevo prima, porta la sinistra democratica ad uscire dal governo, ad apportare appunto ad una nuova potenziale crisi. Ne parleremo più tardi. Intanto appunto il Fondo Monetario Internazionale ha fatto sapere che potrebbe sospendere entro la fine del mese prossimo i pagamenti alla Grecia nell'ambito della sua partecipazione al piano di salvataggio, a meno che i ministri dell'Eurozona, che sono riuniti proprio in queste ore a Lussemburgo, non impegnino altri fondi. La rivelazione è stata fatta dal Financial Times, che ha citato fonti coinvolte nel programma, secondo cui ci sarebbe da coprire un buco da 3 o 4 miliardi di euro, ed è sicuramente una piccola cifra rispetto al totale del piano di aiuto da 172 miliardi di euro finora complessivamente elargiti, ma che in ogni caso tanto sono bastati appunto a riportare nuova tensione in Grecia. La chiusura della procedura per deficit eccessivo con l'Italia, che oggi l'Ecofin ha approvato, è importante da maggiori gradi di libertà, fermo restando il limite del 3% di deficit che l'Italia non deve superare di nuovo, ma che si amplia se c'è ripresa a fine anno. Lo ha detto il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni a margine dell'Ecofin. Saccomanni ha anche detto: ipotizzare una lunga crescita dei tassi non è coerente con i dati che abbiamo. Sentiamo questo intervento del Ministro dell'Economia. È chiaramente una tensione di carattere globale che viene dall'esterno, non è ingenerata da fattori europei, quindi di per sé non cambia molto il quadro congiunturale. Certamente l'incertezza si ripercuote maggiormente, e qui ritorniamo al solito problema, sui paesi che hanno una situazione di debito più grossa di quella di altri. Quindi, diciamo, però ripeto, si tratta secondo me di una situazione che diciamo, nasce chiaramente da fonti esterne. Probabilmente c'è una fase di riaggiustamento dei portafogli dei grandi operatori dei mercati obbligazionari, che avevano evidentemente ipotizzato ancora un processo di ulteriore discesa dei tassi, che quindi sono stati presi un po' in contropiede. Detto questo, ipotizzare un periodo di lunga, protratta crescita dei tassi di interesse, secondo me, non è coerente con i dati che abbiamo delle economie dei principali paesi. E Saccomanni ha anche detto: i soldi per la cassa integrazione li abbiamo trovati fino a fine anno, e per il prossimo faremo in ogni modo, sperando che con la ripresa il conto della cassa integrazione si riduca. E lo ha detto rispondendo a chi gli chiede se siano reali i timori di Susanna Camusso, leader appunto della CGIL. Tra l'altro la sentiremo tra poco, perché stamattina ha partecipato alla nostra trasmissione 9 in punto. A proposito di lavoro, il ministro Giovannini ha fatto sapere che il Consiglio dei Ministri sul pacchetto lavoro che sta mettendo a punto il ministro Giovannini, appunto, sarà mercoledì 26 giugno. Non l'ha fatto sapere esattamente lui, lo si è appreso oggi, l'agenzia lo hanno appreso da fonti governative. E intanto questo pacchetto lavoro potrebbe prevedere sgravi fiscali o contributivi solo per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, escludendo quindi sia le trasformazioni, cioè le stabilizzazioni di contratti a termine, sia le nuove assunzioni con contratti a termine. Questa sarebbe una delle ipotesi sulle quali il Ministero del Lavoro si sta concentrando. Ne parleremo più tardi. Come vi dicevo, c'è stata stamattina la rottura delle trattative sul piano dei 1425 esuberi di Indesit Company. L'azienda lo ha confermato nell'incontro di oggi a Roma con il coordinamento sindacale nazionale. FIOM, FIM e UILM hanno abbandonato il tavolo. Sono intanto 520.000 lavoratori in cassa integrazione a zero ore da inizio anno, con 460 milioni di ore nei primi 5 mesi e una perdita secca in busta paga per i dipendenti coinvolti di 1.700 milioni di euro, pari ad una riduzione del salario di circa 3.300 euro al netto delle tasse. Lo ha rilevato oggi la CGIL, numeri spaventosi, segno della crisi profondissima. Noi abbiamo la sensazione che i dossier si stanno moltiplicando, ma che non si decida sui singoli capitoli, lo ha detto oggi Susanna Camusso, leader della CGIL, parlando dell'azione del governo a 9 in punto su Radio 24. Noi abbiamo avuto occasione di osservare che c'erano molti annunci, come se stesse aprendo tanti dossier, e la sensazione è che i dossier si moltiplichino, che non si decida invece sui singoli capitoli. Questa, devo dire, è una sensazione che abbiamo. Credo che ci sia in parte una ragione, cioè che il governo precedente, come spesso ha scritto il Sole 24 Ore, ha lasciato dietro di sé un infinito numero di compiti di traduzione dei tanti decreti fatti in norme, quindi che man mano si scoprono adempimenti, ma dall'altro credo ci siano le incertezze di non aver deciso qual è il punto vero su cui concentrano l'iniziativa. Il dibattito IMU-IVA mi pare esattamente la dimostrazione di questo, di continuare a stare dentro gli echi della campagna elettorale più che dentro l'idea di che cosa bisogna fare per tirar fuori questo paese, per quel che il paese può fare da questa situazione. Bisogna incentivare assunzioni stabili e non forme di precarietà, però non abbiamo nessuna illusione che sia questo da solo un provvedimento che può determinare un'effettiva ripresa dell'occupazione e ripresa dell'economia. Il tema vero sono gli investimenti, è la ragione per cui alle imprese che dicono cuneo fiscale generalizzato noi opponiamo l'idea che invece bisogna ragionare su chi investe ed assume, perché una distribuzione a pioggia di risparmi per le imprese già in altre occasioni non ha determinato un'inversione di tendenza in termini di investimenti. Cambio di colonna sonora e quindi cambio di argomento. Dopo le notizie in breve andiamo, come vi preannunciavo, al primo approfondimento di oggi e riguarda la Cina, che è uno dei tanti fattori di disturbo dei mercati di queste ultime ore. Oggi, accanto alle notizie che sono arrivate questa mattina presto dalla Cina, poi nel pomeriggio ci si è messa anche la Grecia, per cui approfondiremo quello che accade da entrambi i fronti, cominciando proprio con la Cina. Che cosa è successo? È successo che la più grande banca commerciale cinese, la Bank of China, ha smentito con una nota nella tarda serata di ieri, quindi è dovuta venire allo scoperto per una indiscrezione che circolava con grande insistenza, che appunto nel corso della giornata si sia trovata in default per assenza di liquidità. Per la verità, ieri c'è stata appunto questa indiscrezione, quindi la nota ufficiale della banca, ma per la verità che i tassi interbancari in Cina siano sui massimi storici è un dato di fatto, e che l'allarme tra le banche cinesi stia crescendo progressivamente è un altro dato di fatto. Cosa sta accadendo? Claudia Segre, segretario generale di Assium Forex, l'associazione degli operatori finanziari, buonasera. Buonasera. Allora, è vera intanto questa cosa della Bank of China, secondo così il vostro fiuto anche di operatori sul mercato, se la banca è stata costretta con una nota a smentire ufficialmente questa indiscrezione? Io dicevo in apertura, qualche ascoltatore mi sta anche prendendo in giro, siccome non è che la Cina brilli per trasparenza nelle comunicazioni, di fatto rispetto ad una nota che smentisce delle indiscrezioni, forse perché qualche cosa bolle in pentola, in questo caso di negativo. E se è successo secondo lei questa situazione, diciamo, momentanea di difficoltà della banca? No, direi proprio di no. Le accezioni, le traduzioni negative di questo messaggio non hanno riscontro con la realtà. La realtà è di un mercato, certamente di uno squeeze dei tassi interbancari, ma ciò avviene semplicemente perché la banca centrale cinese ha deciso di non reagire, come ha sempre fatto, a un problema di mancanza di liquidità con stimoli all'economia pesanti, perché vuole evitare l'effetto europeo americano di droga da liquidità, e il nuovo governo vuole intervenire con manovre e riforme direttamente, non con nuovi stimoli all'economia. Bisogna anche dire che la situazione del mercato cinese è totalmente diversa da quella degli altri mercati, e che è proprio l'eccesso di credito che è stato dato, che ha portato il livello di credito rispetto al PIL al di sopra del 100%, che allarma la banca centrale. Quindi la banca centrale vuole evitare un eccesso di lending, soprattutto nei confronti di debiti non chiari o debiti rischiosi, quindi vuole evitare il rischio dell'aumento dei non performing loans nelle banche, laddove abbiamo più di 20 paesi, tra cui la stessa America, Inghilterra e Giappone, che hanno il rapporto crediti rispetto a PIL che sta al 150%, quindi il modello cinese valuta in maniera differente anche l'impatto dello shadow banking, cioè degli scambi di lending non bancari, e cerca di mettere un riparo lasciando andare verso l'alto i tassi interbancari per frenare l'eccesso di lending da parte delle banche ed evitare l'accumulo di debiti rischiosi. Ecco, tanto anche per tradurre per i nostri ascoltatori i termini in inglese che sta utilizzando dottoressa Segre, il lending è banalmente l'attività di prestito, no, che le banche fanno. Esattamente, il problema è proprio che le banche stanno chiedendo di fare più e più prestiti e chiedono liquidità alla banca centrale per questo. E la banca centrale non vuole che si vada in un eccesso di prestiti, cosa che lei può ben capire e anche gli ascoltatori sanno, completamente diverso da quello che sta succedendo nel sistema bancario europeo, dove invece i prestiti languono, no? Qui invece c'è troppa richiesta, non si vuole creare un eccesso di questa esposizione del paese, delle banche dal punto di vista creditizio, quindi è una situazione molto diversa da un punto di vista di modello economico e di situazione economica, che necessita una politica che il governo ha deciso che sarà diversa da quella fatta finora. Ecco, questo significa naturalmente che poi le piccole e le medie imprese stanno trovandosi a corto di finanziamenti, e chiaramente questo atteggiamento si riflette sull'economia reale, al punto che poi ieri abbiamo avuto questa indicazione sull'attività manifatturiera cinese, che è scivolata ai minimi da 9 mesi a questa parte. Non teme questa ripercussione anche la banca centrale cinese? Non è interessata anche alla ripercussione sull'economia reale, visto che tra l'altro la Cina, per fortuna, almeno fino a qualche anno fa, aveva trainato in positivo tutto il resto del mondo? Assolutamente sì. Il problema qual è? Che in questo momento in cui deve concentrarsi sulle riforme strutturali per la crescita economica e stimolare ulteriormente la domanda all'interno, e visto che ci sono stati dei deflussi perché i livelli di investimento dall'estero già dallo scorso mese non si sono ulteriormente incrementati come in tutti gli altri mercati emergenti, è chiaro che la banca centrale cinese ha un problema di evitare di tirare sui tassi in Cina e quindi un abbassamento della divisa, e ha deciso quindi questa di lasciare andare appunto i tassi interbancari a breve e la curva. Sono decisioni diverse da quello che sta succedendo, come abbiamo visto con la Fed e in Europa, ma di fatto è una decisione del governo di non agire più con stimoli e droghe di liquidità, ma di contenere la liquidità. Ecco, le condizioni, lei giustamente la sottolineava, sono diverse, ma tutto sommato l'atteggiamento è lo stesso, e anche quello che abbiamo visto fare da Ben Bernanke due giorni fa, solamente in termini di dichiarazione, almeno fino a questo momento, il quale ha detto: entro la fine dell'anno, se le condizioni economiche lo consentiranno, cominceremo a ridurre gradualmente il programma di stimolo monetario che si chiama negli Stati Uniti quantitative easing. Sono economie diverse, le politiche monetarie hanno ragioni diverse, però l'obiettivo è quello di portare il mercato in condizioni progressive di normalizzazione. Tutto sommato gli obiettivi delle banche centrali sono comunque nobili, segre, riportare il mercato in una condizione di normalità. Ma perché il mercato, per esempio finanziario internazionale, azioni ed obbligazioni, non lo capiscono e non lo accettano? Ma è perché il problema è che sono stati resi così dipendenti dalla liquidità in circolazione che finiscono per pretendere di averne di più del necessario per sentirsi rassicurati, o addirittura pensano di non farcela senza, e quindi lavorano in anticipo su questo scenario di possibile cambiamento del ciclo dei tassi in una situazione di trappola liquidità particolarmente diversa dal passato, perché vede degli effetti sulle correlazioni che sono totalmente saltate e che rendono molto più difficile l'allocazione degli investimenti. Vedi quello che succede sulle commodities come ad esempio l'oro, il petrolio, e anche questo proprio perché di fondo insomma l'economia globale non riparte. Segre, grazie per essere stata con noi, buona serata. Grazie a Claudia Segre, segretario generale di Assion Forex, con la quale abbiamo cercato di far luce sugli accadimenti di prima mattina in Cina, ma adesso ci dobbiamo occupare naturalmente anche di quello che è accaduto oggi nel vecchio continente, a cominciare dalla borsa. Milano sta scivolando progressivamente, il calo in questo momento, dopo una partenza questa mattina con un rialzo dello 0,7% nel tentativo di recuperare il terreno perso ieri, adesso è dell'1,89%, quasi due punti di calo anche oggi per Milano, mentre le altre piazze perdono meno. Insomma, però non va bene neanche a Francoforte, che sta scivolando dell'1,42. Sui temi di borsa ritorneremo subito dopo il nostro primo blocco pubblicitario, tra poco. Focus Economia. Eccoci qua, abbiamo scelto questa canzone, mi suggeriva Mauro Del Corno in redazione, scegliamone una da aperitivo sulla spiaggia, ma c'è poco da brindare per questa giornata di borsa che adesso vi andiamo a commentare, con Milano che si avvia a perdere in questa giornata l'1,89%, la giornata di borsa. Vivia Zancaner, Radio Cori Il Sole 24 Ore, non è proprio serata da mojito, buonasera. Sì, buonasera, no, assolutamente no, direi. No, ecco, anche perché tra l'altro Parigi, che era stata un po' la più turbolenta da questa mattina, alla fine riesce invece a schivarla, perde oltre un punto percentuale, ma perde meno di Milano e Francoforte. Per Francoforte è meno 1,76%, Londra meno 0,43%. Ieri i cali sono stati attribuiti alla Banca Centrale Americana. Oggi invece abbiamo ritrovato fatti europei, Livia. Assolutamente sì, oggi i timori sono tutti rivolti verso la Grecia, ad una nuova crisi di governo, e vediamo anche quindi che la Borsa di Atene ha perso oltre il 6%. La questione è che praticamente il partito della sinistra democratica ha annunciato l'intenzione di lasciare il governo di larghe intese, elemento che potrebbe quindi riaprire un'ennesima crisi di governo in Grecia. I mercati sono preoccupati anche dopo le indiscrezioni secondo cui il Fondo Monetario Internazionale potrebbe sospendere da luglio la partecipazione al salvataggio di Atene. Piazza Affari, come dicevi tu, è stata la borsa peggiore, ma bisogna dire che oltre all'1,9% 9% di oggi. È critica la performance delle ultime due settimane. Piazza Affari chiude quest'ottava con un calo del 5,5%, ma chiude le ultime due settimane con un calo dell'8,6% ed è l'unica piazza negativa da inizio anno con un meno 6,26%. E allora la colpa peraltro di tutto questo è sempre stata attribuita alla vasta, alla ampia esposizione sui titoli bancari, appunto del principale listino, ma qui non c'è solo questo, quindi non è stata solamente colpa dello spread, almeno in questo frangente, anche se per la verità negli ultimi due giorni, essendosi allargato di nuovo, ha riportato giù tutte le banche, Livia, e così è successo anche oggi. Sì, assolutamente sì, le banche oggi sono ancora in calo, fa eccezione alla Popolare dell'Emilia Romagna, ma ricordiamo che ieri ha perso moltissimo, lo spread è sempre a un soffio da 290 punti base, oggi Mediobanca è la peggiore, perde il 9,5%, Mediobanca oggi ha presentato il piano industriale che è risultato bene o male in linea alle attese degli analisti, che però lo hanno giudicato senza sorprese e quindi hanno cioè, gli investitori hanno preferito vendere, certo, e togliere le posizioni. Tra l'altro la perdita per il 2013 di 200 milioni di euro, sono state svalutate le partecipazioni in Telco, che è la società che è la principale appunto azionista di Telecom in RCS. Di tutto questo parleremo peraltro tra poco con il nostro approfondimento con Antonello Olivieri del Sole 24 Ore. Andiamo agli altri temi della seduta, comincerei con le buone notizie sulla Popolare dell'Emilia Romagna, abbiamo già detto tutto, più 3,51 recupera dopo il forte calo di ieri, anche se il recupero nel corso della giornata era stato più consistente e significativo. Su Telecom invece abbiamo delle notizie, più 2,55%, si riferiscono alle notizie di Mediobanca? Sì, diciamo che innanzitutto vi sono state delle ricoperture, Telecom ha perso molto, oltre il 20% nelle ultime settimane, ricordiamo anche che oggi è il giorno delle scadenze tecniche trimestrali. Il mercato però a questo punto si interroga su un eventuale riassetto nell'azionariato, in particolare in Telco che detiene il 22,45%. Di Telecom, dopo che oggi Mediobanca ha confermato di voler uscire il prima possibile dal patto di Telco, e il prima possibile vuol dire la prima finestra utile, ovvero a settembre, quindi si ragiona anche sul comportamento che terranno gli altri azionisti di Telco, che sono appunto Generali, Intesa San Paolo e la spagnola Telefonica. Da qualche settimana i riflettori sono puntati con ossessione direi su tutti i titoli della galassia Fiat, oggi per Exor la holding di riferimento del lingotto, rialzo del 2,23%, mentre gli altri titoli della galassia, titoli SPA e titoli Fiat Industrial, sono scesi. Cos'è successo? Perché questo andamento contrastato? Bisogna dire che è lo stesso mandamento registrato ieri, quindi Exor positiva, l'unico titolo positivo peraltro ieri sul FTSE MIB, e gli altri titoli della galassia Fiat negativi. Diciamo che probabilmente il mercato si sta interrogando su come Exor utilizzerà la liquidità dopo anche la cessione di SGS che è stata annunciata nelle scorse settimane. Exor ha una liquidità di oltre 3 miliardi di euro, poi ricordiamo sempre, come dicevi tu, che vi è la partita Fiat che deve acquisire il restante 41,5% della controllata Chrysler per poi fondere le società e quotarle a New York. Andiamo a vedere gli altri casi, allora G-Tech più nel 94%, la ex Lottomatica qua continua a scommettere sul territorio americano. Sì, assolutamente sì, oggi la notizia è che la società attraverso una joint venture di cui detiene il 41% gestirà per 15 anni la lotteria del New Jersey, il contratto va infatti durata fino al 30 giugno del 2029 e prevede l'avvio immediato della fornitura dei servizi per poi passare a una piena operatività dal 1 ottobre di quest'anno. Vediamo ancora chi è cresciuto oggi un po', abbiamo già detto i titoli con i rialzi più vistosi, dopodiché qua iniziano le cattive notizie, Autogrill incassa un più 0,28%, Parmalat più 0,08%, Tenaris chiude ferma, Popolare di Milano meno 0,19%, Fiat Industrial abbiamo detto meno 0,59%, andiamo i peggiori, Mediobanca abbiamo già detto qualcosa ma amplieremo l'approfondimento tra un po', Buzzi Unicem meno 4,5% per le banche, Unicredit meno 4%, Atlantia meno 4%, Intesa meno 3,72%, abbiamo qualche notizia oggi se non ricordo male su Terna anche, Livia. Sì, Terna era stata positiva fino a metà giornata, ha perso poi lo 0,79%, ci sono dei giudizi positivi degli analisti che hanno confermato appunto la visione positiva sul titolo, soprattutto in attesa del pagamento del dividendo per il prossimo 24 giugno. Gli esperti infatti ricordano che il titolo Terna tende a sovraperformare, quindi a fare meglio del settore nei giorni immediatamente successivi alla data di stacco della cedola, quindi dopo il 24 giugno. Stiamo intanto controllando andando anche sui titoli minori, cos'è successo oggi? Un'altra brutta batosta per Indesit, ne parleremo più tardi, per la rottura delle trattative relative alla chiusura di due impianti in Italia e gli oltre 1400 esuberi che la compagnia ha deciso. Non ci sono margini di trattativa con i sindacati, oggi lo si è capito chiaramente a Roma, e oggi per il titolo nuova batosta del 7%. Le novità di RCS, novità non tanto, novità perché le sappiamo, ma sull'aumento di capitale come va? Sì, allora diciamo che continuano le vendite sia sulle azioni ordinarie sia sui diritti, quindi le ordinarie hanno perso il 6,6, i diritti quasi l'1%, l'aumento di capitale si chiuderà il 5 luglio, il mercato si interroga sempre sulle mosse di Diego Della Valle, che è azionista con l'8,7%, indiscrezioni dicono che Della Valle potrebbe sottoscrivere i diritti per aderire, per sottoscrivere c'è l'aumento di capitale di Giuseppe Rotelli, che è al 13%, che ha annunciato che non sottoscriverà l'operazione. Altre voci parlano di un interesse da parte di Invest Industrial, ma solo dopo l'aumento di capitale, quindi comunque i riflettori sono aperti ancora sull'operazione. Possibili novità probabilmente si avranno dopo la conclusione dell'aumento di capitale, quindi come diciamo prima dopo il 5 luglio. Livia, grazie per essere stata con noi, altre notizie di rilievo mi sembra non ne abbiamo per oggi. No, abbiamo terminato così, grazie. Perfetto. Buona serata. Noi ci fermiamo, abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio e poi naturalmente un altro riflettore lo puntiamo su Piazzetta Cuccia. Focus Economia. Eccoci ritrovati a Focus Economia. Allora, come vi dicevo, oggi ci soffermiamo su un caso di borsa particolarmente rilevante. Intanto per l'entità della perdita in borsa, appunto meno 9,42% per Mediobanca, l'ultimo prezzo segnato dal titolo è 4,40 euro. Oggi il gruppo ha presentato il suo piano industriale 2014-2016, ma evidentemente qualche target non ha convinto gli investitori, oppure c'è qualche altra ragione che motiva appunto questo calo così forte. Le indicazioni fornite dall'amministratore delegato Alberto Nagel sono molte, ma oggi stasera cercheremo di capire appunto qualcosa di più rispetto a quello che è successo, a quello che è stato annunciato questa mattina. Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Anche tu sei rimasta sorpresa da questo meno 9,42%. Sinceramente sì, perché è molto forte e diciamo che gli obiettivi del piano non lo giustificherebbero. La mia interpretazione è che ci sia stato un certo disorientamento sul mercato, perché è vero che l'amministratore delegato Alberto Nagel è da tempo che dice più banca meno holding, può darsi che però diciamo il mercato non ci avesse creduto fino in fondo. Invece i segni concreti che questa previsione si realizzerà sono già iniziati, perché le svalutazioni che sono previste per questo esercizio che chiude a fine giugno sono l'azzeramento totale del premio che c'era sulla quota in Telco Telecom e vabbè, anche RCS diciamo è meno rilevante dal punto di vista assoluto, però il senso è che Mediobanca ha deciso di non considerare più queste quote come vincolate a una maggioranza diciamo di riferimento e quindi meritevoli di un premio, le ha messe veramente disponibili per la vendita e quindi le ha svalutate al prezzo di mercato. Il risultato è che l'obiettivo di renderle magari un po' più convenienti e appetibili a qualche potenziale investitore è certamente perché per esempio nel caso di Telco i prezzi di carico 1,2 euro sono più del doppio del mercato, sarebbe stata una pretesa, certo. Un po'. E il senso è che a settembre però sia RCS che Telecom usciranno dalla compagine di maggioranza, cioè verranno date disdette ai patti, dopodiché quelle partecipazioni saranno sistemate, ma anche la discesa nel capitale di Generali, che non è imposta dai vincoli regolamentari di Basilea 3, perché sono stati molto diluiti e allungati, allontanati nel Nagel, tempo, infatti l'ha anche spiegato stamattina. È una scelta aziendale, significa che si rinuncia a una partecipazione importante, non azzerandola perché passerà dal 13 al 10%, però quel 3% rischia di essere una quota molto consistente, diciamo Tra l'altro Nagel ha detto che non la vuole cedere sul mercato, ma ricercare un investitore qualificato. No, non esattamente. No, ha detto che è aperto a tutte le opzioni, perché l'obiettivo evidentemente è quello di valorizzare al massimo le vendite, non di svenderle, visto che non c'è nessun obbligo di farlo. Quindi che considererà tutte le opzioni. Un'opzione naturale è quella di distribuire le quote sul mercato, per esempio con una accelerated book bidding, ma nel caso in cui, cosa che al momento non è, si presentasse l'occasione di avere un socio. Un fondo sovrano asiatico anche ha citato stamattina che gli piacerebbe, chissà se piacerebbe però a Leone di Trieste. Ha citato un partner che possa aiutare Generali a svilupparsi all'estero in aree dove non è ancora molto presente, forse l'Asia è proprio uno di questi. Noi tra l'altro fino a questo momento abbiamo raccontato tutte queste cose che sono successe questa mattina, dando per scontato che i nostri ascoltatori abbiano coscienza di quello che sia Mediobanca nel nostro paese, no? Tu hai parlato, Nagel vuole progressivamente allontanarsi da questo modello di holding per diventare più banca, proprio perché è una holding di partecipazioni in aziende e società, compagnie strategiche nel nostro paese. La borsa l'ha sempre vista così e continua tuttora a trattarla così, tant'è che chi dà la linea al titolo Mediobanca non è l'andamento della banca e dei risultati della banca, è l'andamento di Generali delle partecipate, insomma, di o Generali delle controllate, di fatto, perché rappresenta dal 60-70% della capitalizzazione di Mediobanca. Quindi ma questo modello di banca a cui Nagel pensa, che caratteristiche avrebbe? Loro tra l'altro hanno già in pancia una banca commerciale che è banca, che comunque è andata sul mercato con gli sportelli verso il retail. A che cos'altro pensa? Allora, diciamo che in realtà la cosa è molto semplice. Pensa a una banca normale, centrata su una banca d'affari, con delle attività diversificate. Forse per questo che il mercato ha penalizzato, non è proprio il momento. Se si mettono in testa di fare qualche prestito alle aziende, magari potrebbero anche essere apprezzate. Li fanno, però non è una banca con gli sportelli, anche che banca non è una banca tipica, di fatto è una banca digitale come modello. Diciamo il core della Mediobanca Banca resta sempre la banca d'affari, salvo che le partecipazioni azionarie verrebbero in appoggio nel caso in cui l'azienda, l'imprenditore avesse bisogno di un sostegno anche a livello di azionariato per un periodo determinato, ma non più come è stato diciamo nei 50 anni di Cuccia, partecipazioni che servivano a cementare un reticolo diciamo di potere, di rapporti incrociati tra il capitalismo privato italiano e la banca del capitalismo privato italiano. Politica che era perseguita banca. Anche da Vincenzo Maranghi dopo Enrico Cuccia, con grande appunto, coerenza. Esatto, cipiglio. Un'altra domanda che volevo farti, Antonella, era quella relativa anche alle cose che ha detto questa mattina. No, adesso per la verità me la sono dimenticata. No, vabbè, piano diciamo di dividendi molto ambizioso, con nuovo piano 40% dell'utile in dividendi. Quindi credo che abbastanza credo in linea, non vorrei sbagliare rispetto al passato. E la novità è che negli ultimi anni queste partecipazioni hanno portato continue svalutazioni, quindi una mortificazione dell'utile netto. E tant'è addirittura in questo ultimo esercizio che si chiuderà il 30 giugno il risultato sarà in rosso proprio per la svalutazione, proprio per questa decisione di togliere il premio di maggioranza dalle partecipazioni. 200 milioni di perdita appunto per la fine dell'esercizio. 400 era il peso di tutte le svalutazioni, 400 milioni quindi. A fronte di tutto questo però Nagel ha detto noi aumenti di capitale dal 98 che non ne facciamo e non ne faremo. Certamente, perché dalle dismissioni ricaveranno secondo il piano 2 miliardi. Allora, il punto è Mediobanca capitalizza circa 4 miliardi in borsa. Avere 2 miliardi di liquidità in più, sapendo che non hai bisogno di rafforzare il tuo patrimonio perché hanno già un core Tier 1 del 12%, che è molto elevato e già in linea con gli obiettivi di Basilea 3 per le banche d'affari, significa in qualche modo distogliere questi investimenti per quanto riguarda Generali da un approdo sicuro, che era quello di Generali, ha un qualche cosa che invece presenta una sfida imprenditoriale in più, che potrebbe, secondo gli obiettivi del piano, essere impiegato in modo redditizio, però comporta l'alea dell'imprenditorialità, cioè se il piano che è stato tracciato funziona, questi soldi che verranno investiti nel core business saranno ben spesi, se non funziona li hai tolti da un approdo sicuro che è quello di Generali, e quindi secondo me anche questo può aver avuto un impatto sul avranno titolo. Sicuramente ponderato con attenzione ogni scelta. Grazie ad Antonella Olivieri, il Sole 24 Ore domani a troverete con analisi approfondite sulle vicende di Mediobanca sul quotidiano. Ci fermiamo, giornale radio, noi ritorniamo subito dopo. Focus Economia. Eccoci ritrovati in diretta con Focus Economia. Ancora buonasera a tutti da Deborah Rosciani con gli ultimi due argomenti dei quali ci occuperemo. Il primo, ve lo abbiamo già anticipato nel corso della prima ora del nostro programma, andiamo a parlare di Grecia perché si sta profilando lo spettro di una crisi di governo. La coalizione dell'esecutivo guidata dal premier conservatore Samaras si è spaccata sulla questione della TV pubblica, la ricorderete bene, chiusa 9 giorni fa con un decreto legge nell'ambito del ridimensionamento dei dipendenti statali voluto dai creditori internazionali della Grecia, ma il premier si è detto pronto ad andare avanti con decisione appunto sulla strada intrapresa. Ieri il ministro dell'economia greco Stournaras, sì, sono dei nomi veramente impronunciabili, qualche volta ha lasciato Lussemburgo in maniera piuttosto precipitosa ai lavori dell'Eurogruppo per rientrare nella capitale ellenica. E in tutto questo cosa è successo? Che anche gli esponenti della sinistra democratica si sono allontanati appunto dal governo, per cui crisi di governo ormai nei fatti. Vittorio Daroldi, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Non è ancora partito, ma chissà se nelle prossime ore lo risentiremo di nuovo ad Atene. Il tema è che intanto Samaras ha fatto sapere che quasi certamente ad un rimpasto di governo si andrà verso il fine settimana. Che cosa ha portato a tutto questo? Dunque, Samaras ha fatto una scommessa, ha voluto fare un discorso come se fosse un nuovo Ronald Reagan dell'Egeo. Vi ricorderete quando Ronald Reagan... Immagine incredibile, fantastica. Quando fece questo braccio di ferro con i controllori di volo, lo vinse e fece capire che insomma era cambiato un po' il modo, il mood. E lui ha voluto fare la stessa cosa utilizzando la televisione pubblica greca, che nell'immaginario un po' collettivo dei greci è uno dei pachidermi, una delle situazioni più appunto... Ma in molti hanno fatto i paragoni con la Rai italiana, insomma se succedesse qua cosa accadrebbe? E quindi ha fatto questo colpo di mano, in una notte ha chiuso addirittura l'emittente e sono arrivate le forze speciali che hanno bloccato il ripetitore e a mezzanotte sono cessate tutte... Il sipario si è abbassato. E un colpo veramente che ha colpito duramente anche appunto la popolazione, che è rimasta stordita di fronte a questo evento, che però ha provocato, a differenza di quanto si aspettava Samaras, una reazione molto forte, perché i dipendenti hanno occupato la televisione pubblica che per 11 giorni appunto, forse questa sera ci sarà lo sgombero con la polizia, questa è una delle notizie che stanno arrivando, ha continuato a produrre i programmi e si sono rivolti al Consiglio di Stato, il massimo organo della giustizia amministrativa, che infatti ha dato ragione dicendo che non si poteva intervenire in un modo così brusco, così determinato. Quindi adesso c'è una sentenza del Consiglio di Stato che chiede la riapertura. Innanzitutto poi la questione è diventata politica, perché sia il partito che oggi ha lasciato la maggioranza, Dimar, che è un piccolo partito, 17 deputati, una pattuglia di sinistra democratica si potrebbe tradurre in italiano, sono componenti della sinistra appunto ma moderata. Il suo leader è Futis Kouvelis, un avvocato, persona molto prudente, che appunto ha ritenuto che questa cosa fosse inaccettabile. Non sono contraria a una riforma, formulazione, a una riduzione del personale, a un taglio delle spese, ovvio, questo nessuno lo nega, però non accettano che sparisca in questo modo e soprattutto che non ci sia più una voce appunto della televisione pubblica. Ma non tutti i problemi che sono emersi oggi per la verità sono legati alla crisi di governo e alla chiusura della TV pubblica. Per la verità qua qualche preoccupazione è emersa da questa decisione che ha preso, anzi non l'ha ancora presa ma l'ha paventata, l'ha ventilata il Fondo Monetario Internazionale, che ha detto attenzione che noi entro la fine del mese potremmo addirittura decidere di sospendere i pagamenti alla Grecia, quelli che vengono fatti appunto periodicamente nell'ambito del piano di salvataggio concordato con le altre autorità qualche tempo fa. E perché ha detto così il Fondo Monetario? Perché pare che si debba coprire un ulteriore buco di bilancio? Sì, esattamente. Allora, perché ci continuiamo a occupare della Grecia, che è un 2% del PIL di tutta l'Europa? Quindi un piccolo Stato crea così tanti problemi. Perché per questi 3,7 miliardi che mancano c'è un problema, che una quota doveva essere recuperata dalle banche centrali, che avrebbero dovuto procurare quello che in termini tecnici si chiama rollover, cioè rifinanziare, ricomprare i bond greci in scadenza. Alcune di queste banche centrali dell'Eurozona hanno detto no, perché sarebbe un finanziamento occulto, vietato al debito pubblico, vietato dai trattati europei. Allora uno si dice, ma come mai se ne sono accorte solo adesso? Certo, se c'era una violazione il patto di è stato firmato nel 2012 a Bruxelles in pompa magna, dove tutti hanno firmato e sottoscritto questi impegni. Quindi primo interrogativo che rimane un po' misterioso. Innanzitutto, chi è questa banca centrale che non ha voluto fare? I sospetti cadono sempre sulla solita banca, diciamo così, tedesca. La Bundesbank. E perché ha fatto questo? Per mettere in difficoltà ancora una volta probabilmente la BCE, che dell'acquisto dei bond dei paesi in difficoltà ha fatto comunque argine per un più ampio problema di salvataggio dell'euro. Allora si sta scontrando in questo elemento questa battaglia. Poi c'è un'altra battaglia, quella tra il Fondo Monetario e la UE. Il Fondo Monetario ha chiesto e ha ammesso di aver sbagliato chiedendo un'austerity eccessiva, ma ha anche chiesto di fare la ristrutturazione del debito. Ha detto che avrebbe dovuto farla prima, cioè bisognava fare subito una riduzione del debito, perché questo avrebbe reso più facile il tutto. La Unione Europea ha detto che questo non è stato fatto perché avrebbe creato il cosiddetto effetto contagio. Allora, su questa vicenda, su questa Grecia, si sta scontrando proprio una grossa partita che possiamo, per semplificare, dire la Obama Economics, cioè come io risolvo la crisi con una maggiore liquidità, introduzione di politiche espansive keynesiane, e la politica tedesca della Merkel, che invece in un momento di crisi pretende comunque di utilizzare un meccanismo di riduzione della spesa pubblica, cosa peraltro corretta, ma in un momento di crisi aumenta, diciamo così, gli elementi. E nel consueto scontro tra titani, la borsa di Atene crolla del 6%, i rendimenti dei titoli decennali volano all'11,6%, e tutto questo si è ripercosso oggi pesantemente anche in Europa, perché abbiamo visto quello che è successo in borsa, soprattutto nel pomeriggio, dopo che stamattina gli listini tentavano di rimbalzare. Avremo un'estate calda di nuovo sul fronte greco, Vittorio? Che sensazione hai? Io penso proprio di sì, perché ha dei problemi, come vedi, sempre di ordine generale. Il fatto che una banca centrale o alcune banche centrali non rispettino i patti non è colpa della Grecia, ma è colpa di un meccanismo su cui la Grecia fa sempre la cavia, perché vi ricorderete, la prima volta non c'era neanche lo ISM, non c'era il Fondo Salva Stati, non c'era nessun sistema per affrontare un problema che nessuno aveva pensato come risolvere. Quindi gli stati hanno dovuto fare un prestito all'inizio, proprio pro quota, si sono messi insieme come fossero degli amici al bar e hanno detto: quanto dobbiamo dare alla Grecia? Bene, dividiamo per il PIL di ciascuno, e hanno fatto così, ma non c'era uno strumento. Hanno chiamato prima il fondo, poi hanno litigato perché alcuni non lo volevano e altri invece volevano il fondo perché era l'unico che aveva l'expertise di queste cose. Bene, adesso abbiamo tutti gli strumenti, ma c'è sempre ancora un meccanismo determinato dal fatto che l'Unione Europea non ha l'unione bancaria, non ha sistemi che sono stati messi in atto, e questo è sempre lo scontro. Quindi sì, prevedo ancora pasticci, prevedo ancora problemi, anche perché gli amici greci non perdono occasione sempre perché ormai si stavano mettendo in carreggiata, stavano faticosamente rimettendosi appunto in ordine, gli investimenti tornavano, ma è difficile, è un percorso molto difficile. Scaccoli, sì. E intanto un ascoltatore, Vittorio, salutandoti, ti scrive: buonasera dottor D'Aroldo, un'altra vacanza in Grecia dopo i sirtaki bond, e non sono tanto vacanze, io lo so che nell'immaginario appunto delle persone che ci seguono dall'esterno facciamo delle gran vacanze, su certe piazze non è tanto facile lavorare. Grazie, buona serata Vittorio. Grazie a voi. Suggerimenti perché in viaggio, poi il caso Indesit. Focus Economia. È Eccoci di nuovo in diretta, gli ultimi minuti della nostra trasmissione dedicati ad un fatto che però è molto importante per il nostro paese, che sta creando molta preoccupazione, soprattutto in un'area economica appunto italiana, forse in due aree anzi. C'è stata questa mattina la rottura delle trattative sul piano da 1425 esuberi di Indesit Company, un piano che prevede anche la chiusura del sito produttivo di Melano e quello di Teverola appunto a Caserta. L'azienda lo ha confermato nell'incontro di oggi a Roma con il coordinamento sindacale nazionale. FIOM, FIM e UILM hanno abbandonato il tavolo e poi negli stabilimenti appunto interessati a questo enorme piano di ristrutturazione sono già scattati degli scioperi, delle agitazioni, come era prevedibile che accadesse. Commentiamo tutto questo con due ospiti. Saluto e ringrazio Gianluca Ficco, coordinatore nazionale della UILM del settore elettrodomestici. Buonasera. Buonasera a lei. E Filippo Schittone, direttore generale di Confindustria Ancona. Schittone, buonasera anche a lei. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Allora, intanto Schittone, vorrei cominciare con lei. Come mai questa mattina non è stato possibile portare avanti nessun tipo di dialogo con i sindacati? Ma premesso che non ero presente al tavolo, da qua, dalle informazioni di cui sono in possesso, diciamo non ci sono stati i presupposti per poter entrare nel confronto rispetto al piano industriale che l'azienda da qualche settimana ha posto all'attenzione delle organizzazioni sindacali. Sicuramente per l'azienda questo è un motivo di rincrescimento, anche perché la lunga tradizione di relazioni industriali del gruppo Indesit hanno sempre confermato e dimostrato una capacità al dialogo e al confronto, conseguentemente analoga disponibilità al confronto c'è tuttora. Ecco, ma un confronto che eventualmente avrebbe quali presupposti da parte appunto aziendale e industriale? Con che tipo di offerta si presenterebbe l'azienda in questo dialogo con il sindacato? Perché non mi pare che ci siano molte aperture appunto da parte di Indesit. No, su questo credo che il presidente Milani in più occasioni e anche tutti i suoi collaboratori e dirigenti hanno subito chiarito che la scelta di questo piano di riposizionamento rispetto alle produzioni italiane è un piano da cui bisogna partire, perché si vuole sicuramente assicurare permanenza dei prodotti di alta fascia e dei prodotti di incasso sul territorio nazionale, quindi è innegabile che questo è il punto di partenza e il punto di confronto su cui era stato chiesto appunto il confronto alle organizzazioni sindacali. Schittone, il governo ha varato di recente il nuovo piano appunto di stimolo fiscale per le ristrutturazioni. In questo piano appunto rientra anche l'industria che riguarda appunto Indesit, il bianco, gli elettrodomestici. Le agevolazioni fiscali sono legate anche a qui nella ristrutturazione dell'abitazione. Acquista anche appunto elettrodomestici. Non basta questo, non è bastato questo quantomeno ad Indesit per ripensare temporaneamente a questa ristrutturazione così radicale sul territorio appunto di Fabriano e del Casertano? Allora, io credo che la questione purtroppo deve essere letta in termini più ampi e questo non certo per eludere alla questione di base, nel senso che, come credo i radioascoltatori in parte sappiano, il disegno è di arrivare ad avere tre poli di eccellenza in Italia. I forni saranno prodotti a Fabriano, a Comunanza ci saranno lavabiancherie a carico frontale, a Caserta i frigoriferi, con delle produzioni quantitativamente prospettate intorno agli 800 milioni di pezzi per sito e con 70 milioni di investimenti nelle tre realtà su cui l'azienda sta facendo ragionamenti. Il dato di fatto è che oggi il mercato interno è un mercato sicuramente asfittico, anche gli ultimi dati rispetto all'andamento per esempio delle compravendite immobiliari segna oltre il 25% di calo rispetto al 2012 e questo ovviamente accentua il peggioramento delle vendite dell'elettrodomestico sul mercato italiano. Detto questo, c'è un ulteriore dato, che l'azienda più o meno ha un rapporto di 1-2 tra il prodotto venduto sul mercato italiano e il prodotto realizzato, ed è un gruppo che ha una sua visione internazionale, che guarda l'Est Europa, che guarda la Russia e che guarda anche ad altri mercati. Di conseguenza, per dare una visione di medio e lungo termine salvaguardando l'Italia, è necessario intervenire. Gianluca Ficco, coordinatore nazionale della UILM del settore elettrodomestici, mi spiega lei perché questa mattina le trattative non si sono neanche aperte, vi siete alzati quasi immediatamente dal tavolo di Roma? Perché Indesit ha dichiarato sì la disponibilità ad utilizzare gli strumenti che la legge offre per ridurre l'impatto sociale degli esuberi, e questa, come veniva ricordata, è sicuramente una cosa importante, ma non ha aperto nessuno spiraglio sul cambiamento del piano industriale. E voglio puntualizzare che noi chiediamo il cambiamento del piano industriale in maniera significativa, perché temiamo che oramai siamo arrivati a un livello produttivo al di sotto del quale vi è il disimpegno totale. Cerco di spiegarmi meglio. Abbiamo fatto nel recente passato anche accordi difficili con Indesit, come con gli altri grandi produttori di elettrodomestici, per focalizzare la produzione italiana sul medio-alto di gamma. Ma ora siamo a un livello produttivo al di sotto del quale le economie di scala minime del settore non permettono una sostenibilità sul lungo periodo. Siamo convinti che permettere ulteriori delocalizzazioni significherebbe avallare il penultimo passo prima della dismissione totale della produzione. Per capire l'impatto degli esuberi basti pensare che dei 1.425 esuberi, 1.250 incidono solo nei plant, nelle fabbriche che al momento occupano 2.400 persone. Stiamo quindi parlando di dimezzare, anzi più che dimezzare, gli attuali organici con i relativi volumi. Oggi per noi concludere, perché tra due minuti devo concludere, quindi le chiedevo sì, grazie. È una battaglia fondamentale, abbiamo chiesto anche al governo di intervenire, e guardi, il motivo è molto chiaro. Indesit ci pone delle questioni oggettive e comuni a gran parte del tessuto produttivo, questioni di sostenibilità della produzione in Italia, ma proprio perché sono questioni serie, oggettive e comuni a gran parte del tessuto produttivo, noi abbiamo il dovere di provare a cambiare qualcosa nei fondamentali, abbiamo il dovere di fare ciascuno la nostra parte, crediamo che imprese, sindacato e governo debbano ciascuno mettere qualcosa sul tavolo affinché produrre in Italia possa essere ancora conveniente. A quale condizione rincontrereste l'azienda se ve lo chiedessero? Se fosse disponibile a modificare in maniera significativa il piano industriale. Intanto avete proclamato, voi e anche gli altri sindacati insieme, uno sciopero nazionale di 8 ore per il 12 luglio prossimo in tutti gli stabilimenti italiani del gruppo Indesit, e naturalmente oggi già molte reazioni molto negative sono partite in tutti gli stabilimenti, appunto a Teverola è stato proclamato lo sciopero, è stata fermata la produzione, e a Fabriano invece a Melano addirittura la mensa è stata occupata con gli operai che hanno letto gli articoli della Costituzione dedicati al lavoro e ai diritti. Io ringrazio entrambi per essere stati con noi, sicuramente grazie ritorneremo a disentirvi, a Gianluca Ficco e a Filippo Schittone. Intanto Focus Economia sta andando verso il termine, io ringrazio Barbara Bianchi, Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, Valeria Bernardi questa sera in assistenza tecnica. Noi ci risentiamo lunedì con Salva Danaglio alle 12 e a Focus Economia ritornerà con voi naturalmente Sebastiano Barisoni. A tutti buona serata. Radio 24, la passione si sente. Focus Economia.